Quell'aria fresca pare già una festa, che bella cosa una giornata e sol. Me ne fuso, o più bello in me, mio, son pronto a te, usare, usare mio, son pronto a te, son pronto a te. Quando fa notte o sole se ne scende, me viene quasi una malinconia, sotto la finestra toglie un cestarrio. Quando fa notte o sole se ne scende,